Ascolta, prima che esci, che sbatti quella porta e te ne vai. E va bene, ma quante scene che fai. E questa guarda che la conosco ormai. E poi io non lo so chi c'ha ragione oppure no, ma che son guai se te ne vai. Questo lo so, e so anche che ci basta un giorno a me e a te, poi torni tu o vengo io, ma non è un addio. Quanto non sai, quanto non sai di un mondo dentro che non hai, quanto non sai di me. Quanto vorrei quel sentimento che per me non hai provato mai. E adesso cosa pretendi? Se prendi la tua roba te ne vai. Che mi arrendo se tu ti offendi. Pensa solo a chi eravamo.